sono 4 dentro, perché c'è due coppiette là, quindi li metto divisori, unito a destra, unito a sinistra, ed è di Bacchinia, tutto zen. Li metto la cosa in terra, la iuta, nell'angolino sotto dove c'è una mangiatoia piccola rotonda, loro vanno, se lo prendono, vedi a vedere, già metti Vasenir unito, perfetto. E io se lo facevano anche con la carta che li mettevano, strappavano la mettevano nel nido. Quando volevo così, allora li compravo quei fili che vendono nella Pindi, dopo se lo fanno loro con questi fili che vendono dentro questa sacchetta, proprio per fare il nido, è proprio fatta apposta, c'è una retina, loro si tirano i fili e si fanno il nido. Ma perfetto, lo fanno tondo, tondo, tondo, bello, bello. Invece il pappagallo li deve mettere la segatura, li mette la segatura dentro, loro non fanno sulla segatura. Ehi, è vero, infatti io ho sbriciolato due palline di pellet in un bicchierino di caffè. Cazzo, si è piena la dattina di un caffè di 11 bicchierini di pellet. Il pellet, se tu lo vedi con l'acqua come si fa, si scioglie tutto l'altro, si mangia tutto l'altro gonfiato. Io lo so perché ho lavorato e ce l'avevamo il pellet dove lavoravo, e quando si rompeva qualche sacco che cadeva qualche chicco fuori, poi quando pioveva si gonfiava tutto qua. E mi pare una specie di popcorn esploso, ma e niente, quindi ho bagnato due chicchi di pellet e hanno fatto un bicchierino di segatura nei cini. No, anche la segatura una volta c'è andata a fare legname, loro ce la buttano. Non è che c'è più segatura, no, non ne abbiamo. E quando mi hanno detto una fa legname non avete segatura, non ne abbiamo, c'è casa di buca. Sono fuori i gaboli falegname, pure un anno era andato, non so cosa mi serviva. Comunque alla fine ho detto, guarda che non me ne serve, mi ha detto, me ne serve un bicchierino, mi ha detto, serve per metterlo appena appena in un nido di... Aspetta che guarda, allora è andato da un macchinario, ne tagliava la legna, a Bisumibe ne era una montagna sotto, e me ne ha scelto un po' di quello un po' più fine, medio, là. E niente, ma è tutto bene, va, dice, già va bene. Ma lascio una maledizione come hai detto tu, che non vuoi che ne pisci chi tu dalla iatta di Gargamella? Chi non vuoi che ne butti un po' più sulla benzina? No, figli, chi da femmina vecchia sotto l'albero della figa già si vede a mille. Cioè, stavo dicendo che, vabbè, poi allora sai cosa ho fatto? Sono andato da Quazzo e lo vendono, la segatura sacchetti. E si va di magari a tutti, dice, lo vendo la sacchetti e l'ho comprata e la mettevo a poco, capito? Ma la butta tutta fuori dal nido, ma i pappagalli sono casinisti, buttano fuori il rotondo che c'è per entrare dentro la casetta, tutto quanto ruzzingando, ci ragando una parte, vanno come ti vuoi essere. Già lo so già, tutta l'entrata si mangia in giro, devi rifare lo blò, tutto quanto ruzzingando. E se lo fate le vedo un dono, eh? Sì, non hai visto, ci sono artisti, so. Artisti con chi sono piccoli, so. Sono ad esempio tic tic tic tic tic tic, rosegnini, lo fanno, don, don, don, don. E loro, ecco, se lo devono sempre affinare, perché gli serve anche per arrampicarsi, non solo per mangiare. Loro, come ecco, si aiutano, capito, per arrampicarsi nei posti. Ehi, è vero, Isi, ma c'è la rete di pane. Quella era quello che c'è da qua giù, quello lì è un bel bello. Ci stavano tutti avvicinati, una volta si è avvicinata la mia compagna, quella che stavo prima insieme. Per voi, ehi, che bello, si è avvicinata e lui si è incazzato. No, no, non avvicinatevi a compagnare. Ehi, è fuori te. E poi se è bene, un bel mano minimo è 2 metri con il tutto. E ora di chi prima, cioè ero fresco di china, nel senso che mi viene, però c'avevo un po' di muscoli, un po' di forza di volontà, si è bito bruciato. E pazzo! Ma io ho detto, ma è... E poi no, adesso mi ha detto, e tu che cazzo sei? Certo, e tu che cazzo sei? Così mi ha detto, ma ci ho detto, no, chi sei tu, come ti chiami? E allora poi, dava che aveva detto di voce, mi ha detto, Chicco, io sono Chicco, e poi fare capo, eh. Capo c'è il padrone della redena modificata, deve essere mai inciso, fai bene come è. Perché anche stamattina, appena diceva solo ciao, ciao. E allora non aveva gana di farvi già, perché quando è venuto tipo il padrone, quel ragazzo tatuato nelle braccia, che non so se fa anche palestra, e niente, gli ha aperto la gabbia e ci ha fatto lui giro in tondo tipo di un negozio, poi era giù nell'altro negozio prima di essere qua, e niente, da cui ha pigliato non so cosa ci aveva in mano, è arrivato, gli ha dato tipo il semino, forse ci aveva una noce. Una noce sgusciata tagliata in due, gli ha dato mezzanoce e si è tentato di tornare nella gabbia. E deve essere che lo fa uscire per le ali mie, per sgranchirsi le ali. No, il padrone è Sandro quello che sta sempre alla cassa, un po' baciottino, quello è il padrone, quegli altri sono tutti quanti commessi. E allora era, o era lo figliolo di Sandro o era lo dipendente? Io ho capito che stai dicendo. E vabbè, comunque... No! Certo, perché nella gabbia c'è stato tranquillamente, lo tocca, lo pulisce, lo fa, l'ho visto io mentre lo pulivo, una volta sono arrivati là presto, perché devo portare 6-7 calopsite. 7 calopsite che io che se ne volevo, ma tu si portano. E le ho portate. Bravo Bavisso, e poi ci hai attrezzato, c'è di tutto, da mangime degli uccelli ai cagnolini ai pesciolini, ci hai attrezzato, è uno dei migliori che c'è qua a Sassari secondo me. Lui è rappresentante della trainer, lui c'ha un capannone dove c'era prima, c'è la strada di Alghero, dove c'era prima anche il negozio, lì c'è un capannone enorme, c'è i camion grossi che portano il mangime a tutti i negozi, lui fornisce i negozi di animali. Ehi, a 600 lui, ma c'ha un sacco di mangimi, pure va giardini, va ma cosa di campagna, basta che sia tipo roba un po' zootecnica come ti si chiama, già c'ha quasi tutto. Poi andavo da quel bombolaio che c'è a San Giugiuri, che bombolaio, non so se ce l'è presente, io c'avevo le quaglie a casa, c'avevo le quaglie cinesi, sai che te la rindovi, solo che il maschio gli ha beccato la testa, che se l'ha ammazzata lì. Ma vado, cin cin cin cin cin cin. Oh Gianni, ha succiato lo zibito. Attenzione che lo fanno anche i canarini, se non gliene dà la massa, gli beccano la testa. Infatti se non è proprio il calore è meglio che non c'è, se non c'è l'estro è meglio che non li metti insieme. No, ma quando tipo la Scalini, ho visto che lui, non lo so, si avvicinava lì e lì non usciva in casa d'Agneda e si afferrava. Li ho separati, l'ho lasciata da sola lì nel nido, c'ha 4 uova. Adesso uno di questi giorni con la piletta da su, che c'è una piletta con il raggio un po' potente, guardo a vedere se sono feconde, se no sono beauty. Non li disturbare più di tanto, se no te ne mollano. No, ma io non li disturbo mai, non proprio, sì, mi avvicino alla gabbia, li metto il mangime da bere, rimangono tranquilli, non si agitano, eccetera. Però quando sono in quella posizione, no, cerco di toccarli il meno possibile, nel senso di non dargli fastidio a me. Poi fasi tutte, dare bombe un bastoncino, se vuole quello indio, se c'ho quello indio, se si vuole che sia giallo col biscotto e l'uovo il bongo visto. E poi quando invece praticamente nascono i pulcini, non lo so, mi sa che glielo devi tu, glielo devi mettere. Allora, io ho avuto sempre dei maschi bravi che praticamente imboccavano la mamma quando covava le uova e poi quando nascevano i piccoli, se la mamma per dire usciva per sgranchirsi, roba, ci andava lui a scaldarli, capito? Gli dava da mangiare. No, la verità, io ho sempre avuto dei maschi molto bravi con la prova. Sì, sì, pure mio fa così il maschio, come ti dici, affettuoso alla compagna, però quando sono piccolini la mamma non vuole dargli a mangiare al babbo, capito? Devi dare prima la mamma e da pure la mamma, ma se piace da venuta già in bici, a ricucini. Se glielo da prima sa farne, perché rubavo le gambe di cucini, è premuroso, li può da mangiare tutti e la mamma non può, perché magari c'hanno pochi giorni. E invece dopo un paio di giorni, allora sì. E niente, li metto l'acqua, li tolgo il bastoncino per non crearli le feci secche, e niente, magari li metto qualche foglietta di lattuga, in modo da avere una digestione la mamma un po' più, e niente. E sotto che mi hanno un acine, come stanno a punirsi una sala secca. Le ho vissute tutte quelle cose. Io allora c'avevo in veranda, c'avevo praticamente uno scaffale a tanti ripiani, in ogni ripiano c'era una gabbia, erano tutte gabbie da coppa, di quelle grandi quanto lo scaffale, e praticamente ce l'avevo tutti lì, che rifilavo le gabbie dentro, avevo tutto fatto su misura. Solo che mi imbruttava di tutto il buio, mamma mia, un casino, ogni volta dovevo biancare perché tutta la cacca si attaccava al muro, anche se ci metti più roba dietro si attaccava lo stesso. E allora avevo deciso di venderli, li ho tutti venduti, ma poi mi sono mezzo pentito perché sembrava una foresta a casa mia, era sempre col canto, la mattina ti svegliavi col canto degli uccelli, era così bello. E tu, quando al bigia si pone a cantare, quando al bigia. E allo seguito, quando è così ci vuole uno spazio dedicato, ci vuole, con tipo lo scaffaletto, che così magari, però è sempre la stessa cosa, sempre i buri devi, perché sono impegnativi come anche tutti gli altri, però ne hai una, due coppiette e andai bene, pure magari. Però quando ne hai un bel già è un casino a chi c'è la voliera un po' grande, magari fatta anche da te, ed è diverso, però quando ce li hai così in casa abbiamo tutte le gabbiette, fatti non sa grasso niente. No, io c'avevo gabbie grandi, non ne avevo voliere, c'avevo le gabbie grandi sopra le scaffali. Ma io sì, con la verità, prendevo i piccoli, e con quelli lì compravo il mangime e non mi davano nessun problema, capito? Di spese, di cose, niente. Con i soldi che guadagnavo da quelli che vendevo mi compravo i mangimi e li portavo avanti così. Infatti. No, io molte volte lo prendo da internet il mangime, da... c'è una ditta, Fratelli Fainella, mi pare si chiamano, che ce l'hanno sfuso a chili, quindi mi faccio fare tipo un chilo di lì, un chilo di lasso, la spedizione standard 13 euro e mi arrivi la gascettina con tutti i mangimi, tipo canapa, niger, semi di colza, cagliura, panico di sugia, di tutto c'è quello lì. Ha susato era panico, panico si chiama. Sì, panico, unico panetta. Ehi, già, sono rientrato. Alto. Ehi, cappa, ma a Ruscio non sono noi che bisognete. A Ruscio? Sono canarini, cazzo, canarini li mangi tu. Vabbè, che vedete, si mangiano i suoi, di buffa. No, rimusciti sono buoni, rimusciti di buoni, l'ora già lì due in mezzo e arriva che si è fatta secca, buona lì due. Io già ho fatto il rimosso, con la zionda, con un po' di cose di vino e te li baci, io faccio anche le quali così. Buona lì ti sono sfumati, li buoni appena di vino, su Maria già, e poi questo licchissimi. Ah no, Antu. A te hai bisogno di viaggi. Non avete mai mangiato di cose. Di questi cose gucci. No, cacciagione, ma li vendono anche, le quagliette le vendono. No, non è capitato. Le vendono in confezioni, le macellerie le vendono. Io una volta avevo comprato il fagiano anche. Fagiano. E praticamente era un po' dura la carne, lo sai? Ma erano un po' duriti nel petto, erano la polpa del petto. E allora in Ghibli dovevi arrosare un po' con mezza tazza di vino rosso e due ravanelli e trullarla. che ridi. Buona ridi, fissi che non capo se lo segheggia tipo granchetti. Ma non hai visto cosa fanno questi africani, per carità. Ma niente, ci la scimmia a gas, tutti che ingreffa, la base di mutita, che muore in verdure, che non so manco che verdure sono. E poi ne la cavano in pura e la quindi tutta la mossa, come ti ingani, tutti in greffa, uno che può scicheggiare un gambo, l'altro cazzo, che schifo che fa. Iaia, cosa mi hai fatto a metà? L'ho visto, l'ho visto. Non hai visto da voi da che prendono tipo, cosa ne so, il l'ustambecco, cosa è, le alci piccoliste. Ti ha segnato abbastanza di semino un gusto in padella con tutta questa raggosa, non hai visto che razzatura. Ma te pazzi che fanno i denti buoni, eh? E gli indiani, noi vorremmo far metà. Si mangiano i suri, che mamma mia. E chi sei come te uno che sta sui nobi, sei una barracca? In un pezzo di Daribario e Nobi c'è uno che ha 63 anni adesso e c'è lì da quando era ragazzino che faceva lo ziracco basso. E cosa ti stavo dicendo? Oh Dromi, in questa gazzetta, oh freddo, strano, e si sa portare un island a Targubassuia che viene nei vizi della vernice fasciata e c'ha tipo una specie di coperta cucita da lui e sono tipo due peli di, o quattro peli di pecora sono. Cazzo, ma è pure il gabbo che su, Piero si chiama. E guarda, è una cosa pure il gabbo, ma nel ritmo si è fatto una specie di drappola strana e piglia tutti i risurghi di campagna, da poi si ricordi a spiedino a tipo come ti fa nera. Non ti si dici? le alici nel fuoco. Ma è fuori di gabbo questo qua. Non penso che sia una persona giusta, eh. Ma io... Guarda, adesso c'è andata mia figlia in Thailandia, mi ha mandato i filmati degli animali che ci sono, cazzo. Un lucertolone enorme, mi ha mandato il filmato di questo lucertolone enorme, sembra un coccodrillo. Poi le scimmie che sono libere così in città, pure da una base all'altra, se non stai attento di rifurare la roba. Allora, di che si vede la giubilco, basta rosso, un tipo come se lo buchito su un certo lono. Vedi a vedere a niente, ma niente, si tipo la spada, lo gozo, la boifa, e se giudizi no che sei una fame ghighi, chimica arretrata o iuia. Ma non mangiavano un gusto me già, se ne fate nemmeno la gana, dice, chi si sono fuori il capo? Mangiano anche il coccodrillo, in Thailandia mangiano anche il coccodrillo. Coccodrillo è vendita nei ristoranti, in più ci sono lungo questo fiume tutti quanti le bancarelle che hanno le cose per gli insetti, ma dai. E allora rigugnoli pieni di righetti di come si chiamano, di Santa Lucia, e se li fai tutti frisci, vedi che croccanti. Insomma, la pensare. E poi ci sono anche i serpenti, tu te lo scegli e ti dà quello che vuoi. Dove va parruccio me? Visto che vai a Tipanghida, tipo Rongo, a Bruto e Panate Frisso, e c'hanno una cultura diversa lì, ma che di aborigeni che di tuduni che si mangiano i scimmietti, cazzo, sono pazzi veramente, oh. E vedi tu Ciabba, mi pare per uno si chiama Ciabba, che su passottino, e su che ti è copiato. Tanno gli incidenti, tutti niente, ma carità, vabbè. Di una diversa cultura, ma sono primitivi, secondo me sono ancora primitivi. Gli indiani che mentre cucinano e mentre mangiano, questo qui cazzo stava mangiando e nel piatto andava di tuppi e mangiava dal piatto suo, poi ci ha messo una cosa in bocca e ha dato il tuppo e l'ha presa dalla bocca. E io ci sono stato bravo, sono proprio... Ma è tutto naturale, è visto dai, né malattie, né dolori dolci, nulla, ma ne chi si rompe nel lume, dove i temporali, i tempesti, si affarrano con i scimmi, che viene bene. essere che vabbè, siamo uno più fracassato dell'altro. Purtroppo sì. Che cazzo è da Bucaria, cazzo? E già la giubisci gli indiani, già. Uno non si rimane, tutti rimane brutti, già si sono educati un culo, a catagozza. Ma va bene, non per andare in equipe, ma come si era ammazzati. Ogni schifo, tutto il cazzo da via. A dove? Se ti invitavo a faccia, c'è l'estanda. Qua è finì, la massa di binghinose, so. Ok, dai. Mangiano, aspetta che cosa ho visto. Ah, le rane vive, alto. Se le mettevano in bocca le masticavano, clic, clac, clic, clac, clic, se le mangiavano. Ma è forza, ci sono, mica non è che dici si mangia la scimmia, mica non ci ammazzare mica dalla scimmia. Ma la scimmia non ha quella guzza, invece le rane erano vive saltando, la prendeva, la rana ce la volevo. Che schifo, cazzo. Le scimmie a me non le cucinano, cazzo, non so come, perché ci mettono un po' di erbe, di cose, non so, magari sono anche saporite. Ogni schifo, cazzo. Ma mi ha detto che sta mangiando solo verdure, basta, non mangia le verdure, brudi come verdure, non mangia. Ma è forza, non sappiamo dove andare, cazzo, il posto più bucaccione del mondo, so. No, lì in Thailandia gli insetti, vabbè, li mangiano gli insetti, il coccodrillo, mangiano i serpenti, però sono più puliti degli indiani, sono proprio sporchi, tutti i topi che girovagano attorno al piatto. Poi questo che ha preso, si è soffiato il naso, si è parato un buco, cazzo, mentre girava questo pentolone grosso. Poi c'era il tipo che stava aspettando per dargli il piatto, cazzo, ha preso dalla pecca, non veniva caduto il buco, c'è stato il piatto, quindi se l'ha mangiato tranquillamente. Ah, la razza, yuhu, avanti, Gianni di Sorso. E allora l'ha posto una mezza droga, ne ha posto lo compito. Poi a quanto sono pulita, sono anche se le bibite come le vengono, adesso la bustina di nylon con la cannuccia. E chissà che sarà dritto, uia, ma che chissà come ti rifate, dice il bibite. Io qua non prendere, io farei dieta in quei posti. E in Ive tutto OGM non vanno da Gozo, come si dice, che il suo medico che c'è sempre in Facebook. Battiti non vanno in Ive. Oh, questi batteri che mi so. E tanto hanno delle difese immunitarie superiori alle nostre, perché più uno più sporco è, più difesa immunitaria c'è il corpo, perché ne produce proprio per difesa. Via con il zio, dai, guarda che indiani, mamma mia. Sì, no, non hai visto il vendere un gelato in questo cilindro ghiacciato, che si pone nel ghiaccio, detto, tutto rugginoso, Gesù Madonna, buono però di vicino. A sapore di rugge. E allora, con questo retro gusto metallico già. È allucinante, guarda. No, che ci sono solo di barbe. Io guarda, a quanto hanno fatto i miei figli a farmi mangiare il sushi, a convincermi a mangiarlo perché non ci voleva andare. Poi ho visto che, per dire, i gamberetti, quelli impanati, sono buoni, hanno un'impanatura particolare loro che fanno, non è l'impanatura che facciamo noi. E poi mangio roba praticamente tipo cosa ti posso dire, anguille, roba così, non mangio roba cruda, l'unica cosa cruda che mangio è l'ustrica, boh. No, certe cose già sono buone, quando prima c'era tipo il ristorante dei cinesi, una volta siamo andati noi a mangiare, come hai detto tu, io ero un po' suscettibile, e abbiamo mangiato tipo pollo alle mandorle, riso, alghe fritte, poi cosa ho mangiato, il gelato fritto, i gamberetti in salsa non so di cosa, e ti dico che lo sai, due cosettine in assaggio, allora già lo metti da parte, tragazzato già, da questa mezza data di sacchio, cosa è, tipo virus verro, con il cuore che fanno loro. A Rosia mette Zaccaggio di Varecci e dei rami bariami tutti quanti, tutta tontonati bariami. È buono il saore. Cavolo, l'amico mio si è accoparato una pulla di questa specie di ricordo strano. No, io non ho mai bevuto sake, però l'ho sentito parlare. Guarda che i cinesi sono molto più alla mano con i prezzi, perché io dove vado io, adesso vado con i miei figli, quando vogliono andare mi chiedono se voglio andare con loro, vado lì in quel ristorante che era aperto nuovo, apre la nieta, giapponese. Cazzo è bello, sono l'entrata con l'acqua che scende nelle colonne, è bellissimo qua. Sono l'entrata, è favolosa, è tutto lussuoso. Allora mi vado in baga. E quello che fa la pubblicità, che fa che tipo 12 o non so cosa, e dice è magna crebatura, e se non te lo mangi paghi un occhio. No, quello lì è cinese, quello che stai dicendo tu, dove c'è il mercatone. Quello è cinese e ci vuole andare lì, perché è se il servizio e mangi i gatti di piazza. Lo dice anche lui, mangi a crebatura. Deve essere tu quando andare in ghibi, a chi magari ti piace un qualcosa e te ne mangi un carradito. Ah, perché stavo la sapore di tutti questa cosa. Conoscevo una volta, mi hanno convinto ad andare dai cinesi, siamo andati tutti in greffa, ragazzi, tutti in greffa. E io ho mangiato queste coscette, che erano impanate in fritto, erano ben buone queste. E praticamente poi mi hanno detto che erano cosce di rana, non le sapevo io. E ti potevi mangiare di tutto, non in aragosta, no, c'erano non l'aragosta, c'erano le, come si chiamano, quelle con le chele, gli astici. Lo scegliavi e te lo cucinava davanti. E pagavi una cazzata, 18 euro, all'uscita pagavi 18 euro a testa. E potevi mangiare di tutto, c'era anche il gelato, potevi farti anche il gelato alla fine, c'era la macchina dei gelati, tu abbassavi e ti usciva il gelato, e c'era in fila, c'era tutta la roba possibile e immaginabile, non me la mangiavo a mangiare tutto, ma anche se ne gustavi un pochettino di ogni cosa non ce la facevi, era cazzo un bancone lungo, cazzo tutto pieno di roba. Eia, buono, che si goccette di rana le ho mangiate anche io. Buone, spettacolari, si rugliano in bocca. Però eravamo tipo in greffa in questo ristorantino, era vicino, mi sembra, al Buri in una traversa lì. Ma ti dico che abbiamo mangiato un bel bene. Mi sembra che avevamo pagato 12 o 14 euro a testa. Però ci hanno regalato di tutto. Spolone, mandorle, coscette di rana. Di tutto a mangiare. Perché tipo poi c'era il manzo, un momento come se ti arrivi a sopra tipo una specie di tagliere piccolo bollente. Buono. E che cioè non è che puoi andare ogni avuto. Però tipo del sushi e si cose non vedo come è andata in ghibi. Però nel negozio cinese sì, più di una volta. Già, secondo cosa prendi, vabbè, quando vai dai cinesi solitamente si prende con le mandorle, queste cose qua che conosci, come sono fatti, capito? Sai che sapore hanno già, ma quello che ce n'è a Pascoli l'avevano chiuso perché l'avevano trovato i cani appesi nel frigorifero, lo sai. Alla palla! I cani. Ma cosa vedi sempre? Gabrielino prende il terrorismo. Cos'era mio figlio? Prendeva il microfono, papà, ma stai venendo? Quando salivo dal lavoro, in macchina io l'accendevo sempre, mi chiamava mia moglie, la butto la pasta e buttala che sta salendo. A volte lo prendevo il microfono, cazzo. E diceva, doppio luci, sì. Che tanto avanti vicini di davanti tutti quanti, tutti con il telefono, con il tablet, tutta contonata mi pare. Loro ricoglioniscono con i giochi, si chiudono in camera, con il gioco, non si muovono dentro le case. mi sono arrivati tutti i componenti dell'altra radio e adesso vediamo di piazzarli a vedere a far la viaggia. Ciao Gabriele. Mami. Chi sono io? Gabriele. Vitale. Sono sicuro. Ma cosa sei di Zanetti? Aspetta. Arabo, arabo. Cosa vuoi dire? È chiaro. Salutali. Ciao. Ciao. Ciao Gabriele. Chi sono io? Già detto, già ti ha detto. Io lo conosco da minorizzo, vedi? Ho già, proprio da piccolo piccolo. Eia! Piccola. Gli ho dato due macchinette da Jungheni, la prima perché tu stesso della PlayStation e oi, hai in coso Maria Edo, a Monte Carlo. Ma mi conoscete perché con la tua? Praticamente era in giro a Platamona, alla Marina, la poi ha fatto un giro in su. Gli ho detto dove era la via, gli ho detto se ci fermava ci prendevamo un caffè. È salito a casa a trovarmi, ci abbiamo preso un caffè e Gabrielino era giù nel salone. Gli ho detto, mi uccellini Gabrielino, oh ma come la si chiama, l'ha visto un mano blu. Un cameretta della Brittese ci ha fatto di subito a un mano blu della Brittese. E andiamo a... c'è il terrorista a vivo, ti era abbandonato. No, era tranquillone. E magari che mi ci vergognava. Ma accade a casa sua, oia. La zia sempre, le scale, aiuto, se non vuoi andare. Vabbè. Kappa, e va bene, dai. E infatti, metto, e come fa a conoscerlo, Gramello di... No, è venuto a trovarmi già. Capo, ero lì a sorso, ho detto, va, andiamo a andarci a farlo, va. È fatto bene, tu, è fatto bene, in gamba già. Capo, è in gambissima, Quindi hai visto anche la stazione? Sì, sì. Gli ho detto, ho detto che l'antenna è troppo bassa. E quello è il problema, infatti. Magari se lui alza, sente bene anche a Claudio, e la gente che non sente la sente meglio, e non sentono meglio anche a lui. Guarda, se sale l'antenna c'è una bomba. Ehi, come ho 5 minuti la sollevo un paio di metri. Quelle antenne non devono lavorare così, Se tu la alzi, cambia dal giorno alla notte. Ma già sono in un punto alto, dai, però se la sollevo ha più modulazione. No, devi sentire e trasmettere un'antenna. Vedi che io non ho problemi con nessuno. Io sento tutti, arriva bomba, non ho problemi. Perché devi trovare un compromesso, devi trasmettere e uscire, capito? Quando tu trovi quel compromesso sei a posto. Ehi, adesso quando fa del buon tempo la faccio sistemare. Ne vai a zavere che tu non avrai mai più problemi. Lo mando da Oppo e mi posso comprare 2 metri di tubo. Beh raga, io vado a mangiare la pizza, là, se non siete gelosi. Appetito. Che magari se coincide ci sentiamo dopo. No, dopo mi guardo un po' internet e cose. Un po' sul telefonino, dai, ci sentiamo domani magari. Grazie per l'impressione, buona serata e buona continuazione. Ciao, ci sentiamo. Sì, purtroppo l'antenna per avere il meglio, per essere splendente, poi a Sassari arriverà con un segnale molto più alto, molto più forte pure. Minimo! Se adesso arrivi 9 qua, minimo arrivi 9.20. Ehi vabbè, ma io basta che sento e parlo. Sì, lo so, però quel tipo di antenna andrà liberata un po'. Ci vuoi altri 2 metri di tubo almeno, devi alzare l'antenna, compreso. Quando tu la liberi, lei ha tutta la sua potenza, tutta la sua capacità. Comunque sia, come questa, no, in ovine. Cioè, mi trovo troppo. troppo bene. Se trovava una ricezione ha paura. E che antenna è? A tu? Ce l'abbiamo un po' tutti, la GB è della Sirio, c'è la sia della Sirio e Midland, c'è la Energy Midland, quella tre radiale. Si pone chi se è nata la Campiciuria, lì dall'altezza giusta. Esci come entra un coso, esce. Ma è sempre soggettivo, la mia è buona, mia antenna, la mia è una, già l'hai vista che modello è una 5 ottavi, io basta che la sollevo un metro su, 1,5 metri, 2 metri, so go Giulia. Sì, no, se la sollevi va. E come se va? Che cavo stai utilizzando? Il 58? Provvisoriamente sì, ma quando arriva l'H 155 io metto quello. Metti di quello e sale l'antenna. La metti più in alto, vedrai, giamba, dalla di Aranotti, giamba. Ehi, appartiene a una distrazione quel capo anche. Io gioco quello e vado a bomba, vado. E lì su di un BM? Sì. Io c'ho quello lì e esce una bomba, esce. E poi tanto il diametro è come l'RG58, mi sembra, la morbidezza più o meno, va bene, uguale, e c'ha meno dispersione di dB. Appa, è così, Ti posso dire che bomba, andrà bene. Gabriele! No, porco Giuda! No, via, chiudi subito lo sportello, chiudi subito lo sportello, se pigli la corrente, usando il sesce. Cavolo, sai cosa sta mettendo il codice sull'alimentatore, switching? Vai e controlla, lui, se no fa di danno. No, non deve toccare da questa cosa, è pericoloso. Faccio un attimo di bianco già, torno, va, a tu. Magari tra 5 minuti se ci sei già so che no, mi devo spostare un attimino. Mi trasferisco nell'altra camera, dai.